Bene, buonasera. Allora, siamo di nuovo qui presso la sala del Centro Trevi per un nuovo incontro, una nuova iniziativa di incontro con l'autrice, questa volta la senatrice che abbiamo qui con noi stasera, Lidia Della Pace, molto, è persona molto conosciuta a Bolzano e non solo. E l'abbiamo avuto ospite appunto poco tempo fa insieme a Alicia Sarfatti e anche a Pierpaolo Dalla Vecchia, che si presterà questa sera per alcune letture, rispettivamente per la presentazione tempo fa appunto del libro, del racconto scritto da Pierpaolo Dalla Vecchia e dedicato ai suoi genitori, alla storia dei suoi genitori ambientata nella Seconda Guerra Mondiale. In quell'occasione la senatrice Della Pace aveva fatto appunto una sua introduzione storica, delle riflessioni, e c'era stato anche un interessante e vivace dibattito. Questa sera invece è la protagonista con il suo libro, Io Partigiana, che è stato ancora pubblicato alcuni anni fa, ma che volentieri viene riproposto in questa sede al pubblico della Biblioteca Provinciale per approfondire nuovamente questo tema della sua partecipazione in qualità di partigiana nella resistenza durante appunto la Seconda Guerra Mondiale. Ci accompagna in questo cammino questa sera Alicia Di Biasi, che a sua volta è stata qui ospite ed autrice di un libro che ha avuto anche un grande successo, un libro dedicato ai bambini e fatto con i bambini, insieme a Grano Colombo e a Sarfatti, Sono stato io, un libro che ripropone il tema della Costituzione e coinvolto in questo progetto bambini delle elementari. Sì. Quindi una cosa particolare, diversa, e che ha sicuramente stimolato una partecipazione alla vita civile dei bambini, insomma, in epoca, in età appunto delle elementari. Bene, io non mi dilungo, vi ricordo che giovedì prossimo saremo di nuovo qui per un libro sulle Dolomiti. Avete le cartoline, probabilmente ritornerà anche un avviso via mail. Il titolo sono Sotto le rocce di Michela Piana. Vi ringrazio della vostra partecipazione e cedo subito la parola alle nostre ospiti. Grazie. Allora, con Lidia ci siamo messe d'accordo prima che io faccio degli accenni biografici, lei li completa però, perché era troppo interessante. Infatti prima ci parlavamo. Ci racconti tutto prima, poi non no, infatti, esatto. Ed era divertente perché lei completava quel che io dicevo ed era bellissimo. Ho detto no, questa cosa qui bisogna farla anche dopo, e allora faremo così. Però prima io volevo parlarvi del libro un attimo e volevo dirvi che questo libro è un libro particolare, è bellissimo perché ti tira dentro come un aspirapolvere, l'effetto aspirapolvere, veramente, è una cosa incredibile. Uno comincia a leggere e poi deve andare a fare la cena, ma non può, cioè deve continuare a leggere. E ha una particolarità, secondo me dovrebbe essere adottato proprio in tutte le scuole del regno, perché l'editore sarà felice, eh? L'editore sarà felice, è vero che sarà felice, sono bravissima, vero? Perché ha una particolarità, oltre ad essere molto interessante, lieve, questo racconto fa entrare nella resistenza di Lidia, fa entrare nell'epoca, poi ci sono delle schede storico-esplicative fantastiche che spiegano benissimo quello che sta succedendo, quello che accade proprio nel libro, lo spiega e ti ricorda quel che è accaduto, lo ricorda a noi che la storia l'abbiamo studiata, figuratevi ai ragazzi che entrano, secondo me, in un dialogo incredibile con quello che c'è scritto. Io fossi nelle bibliotecarie lo comprerei subito, perché ne vale veramente la pena. Bisogna averlo nelle biblioteche scolastiche, assolutamente, e promuoverlo nelle classi, credetemi, vale veramente la pena, giusto? Sì. Sì. No. potrei dire che questo, puramente questa proposta mi riempie di gioia e di, così, mi fa molto piacere, ma dà ragione a una mia luciferina ambizione, che è quella di dimostrare che tutta la storiografia sulla resistenza fin qui scritta è o falsa o reticente, perché non ha un criterio adeguato alla resistenza. Uno prende un libro e dice la resistenza, quarta guerra del risorgimento, non c'entra niente, nemmeno lontanamente, e poi vuole raccontarla come una vicenda, anche questo non è possibile, non c'è una vicenda resistenziale, ci sono una quantità infinita di episodi che hanno elementi comuni e anche elementi differenti, anche persino contraddittori certe volte, sono avvenuti contemporaneamente in un certo periodo sul territorio nazionale, tra l'altro sul territorio nazionale. La prima idea da sfatare è che la resistenza è una cosa del nord. È vero, infatti in questo senso. Questa è una cosa importante. È molto importante. Invece è una cosa nazionale, mi spiego con un paio di esempi. Io sono nata a Novare, come è noto, un po' dopo le guerre puniche, e quindi sono stato qui dopo alcune peripezie, e tra l'altro anche dopo la resistenza, alla quale ho preso parte tanto da aver ricevuto nel 1947 dal Ministero della Difesa nazionale, che si chiamava Ministero della Guerra, sotto il fascismo si chiamava Ministero della Guerra, uno dei primi nomi cambiati appena dopo la liberazione. Mi arriva un documento in cui si dice Lilia Brisca, che è il mio nome da ragazza, partigiana combattente col grado del sottotenente, ridete pure, ma questa è la cosa, partigiana combattente. Io non ho mai portato un'arma. Pacifista. Assolutamente. Considero una gloria della resistenza italiana che chiami combattente anche chi ha agito senza portare armi. Per esempio, io non portavo armi. No. Dopo spiego che questa non è, già non violenta, non lo sapevo neanche cosa volesse dire, ma semplicemente cosa volete che sapesse un ragazzo di 19 anni del secolo scorso di armi. Mio papà non era nemmeno cacciatore, non avevo mai visto nemmeno un fucile da caccia. Delle armi avevo paura, quindi io non volevo armi perché avevo paura di spararmi nei piedi da sola. Era pure legittima difesa di non uso delle armi, però invece portavo plastica, ecco, per gli attentati. E no, perché con quelli ci facevano saltare i ponti o i binari delle ferrovie accuratamente, senza che ci fossero su persone. Quindi danneggiavi le cose orribilmente, ma questo era lecito, io trovo. E ora, questa roba del plastico, poi la smetto subito perché sennò. No, vai. Questa cosa del plastico è terribile. Una paura terrificante, perché il plastico, questo esplosivo, col freddo esplode, quindi bisogna portarlo a pelle perché stia caldo. Allora io la mattina mettiamo, prima di finire il coprifuoco, mettevo intorno alla vita questa cintura esplosiva, mi mettevo un giubbotto, tre sciarpe, tutto quello che avevo, in modo da fare intorno un ambiente caldo, la prendevo la bicicletta e andavo a portare questo plastico dove dovevo portarlo, sempre stando attento, levarmi di dosso in una stanza calda. Però insomma l'idea di essere lì in bicicletta, che se per caso è uno spigolo, parte, vai via, salti, che insomma, non era proprio un accogliente. Allora, quando racconto la resistenza, io racconto soprattutto delle paure. Ho avuto moltissime paure e anzi ho imparato che chi dice io non ho paura mai, sono coraggioso, non è coraggioso, è temerario o temeraria, cioè non vede il rischio. La paura è un utilissimo punto d'allarme e dice stai attento. L'importante è riuscire a passare dalla paura al coraggio e non dalla paura al panico. Se tu dalla paura ricevi un campanello d'allarme e cominci ad attrezzarti a reggere, passi dalla paura al coraggio. Racconto un episodio. Le prime cose che mi insegnavano era quando c'è un posto di blocco non portarti a scappare perché non ti sparano nella schiena. Devi invece andare al posto di blocco e avere una copertura, cioè una storiella da raccontare, che spieghi, in qualche modo giustifica la tua presenza su strada in quel periodo. Allora, scendevo dalla Valdossa una volta, cioè, sono vari tourniquet, vari tornanti, e poi c'è un lungo percorso e dopo si arriva a Novara. Svolto, faccio quest'ultima volta, c'è il posto di blocco in fondo. Io ero in bicicletta e sulla bicicletta avevo il cestino, naturalmente, quello che si metteva sul manubrio, e lì avevo un po' di stampa clandestina che non mi dovevo far prendere, ovviamente. Poi un pollo che avevo comprato al mercato nero a un contadino per contribuire un po' al sostentamento della famiglia, e poi sopra avevo le tusculane di Cicerone, perché la mia copertura era che ero andata a studiare latino per il biennale che dovevo fare da una amica che abitava in tal paese, uno dei paesi dove ero passata. Allora arrivo in mezzo di corsa, arrivo dal posto di blocco e dico: ah, che c'è mia mamma, come è stata, perché già qua sta per venire, sta telefonando mia zia, mia sua cugina, cioè faccio un po' di scene così, e poi dico: ma io invece ero andata lì a studiare il latino, vedete, e tiro fuori il tusculare. Un effetto miracoloso, il poliziotto a vedere il tusculare, vai fuori dai piedi, e così fu che Cicerone mi salvò la vita. Un autore che io non ho mai amato granché, sono molti episodi di questo tipo, e secondo me la storiografia vera sulla Resistenza dovrebbe essere fatta così, fino a quando noi sono ancora alcuni vivi, abbastanza numerosi. Sarebbe bene incitare a che tutti noi scriviamo memorie, racconti, e poi allora le biblioteche possono fare sezioni apposta di bibliografia, e poi dopo, quando si saranno messe insieme una quantità enorme di queste, si potrà fare un racconto della Resistenza, che si chiama Resistenza e non è guerra, ma lotta. Lotta di resistenza, almeno io la chiamo lotta, ma anche ufficialmente si chiama così. E fu diretta da una cosa che si chiama CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale. Tu avevi qualcosa? No. No, perché io sono. Io avevo una cosa da dire. Tu a un certo punto dici. Aspetta, perché devo trovarlo. Tu dici che la resistenza, ecco, mi aveva colpito tantissimo perché dicevi questo, ma la guerra con suo carico di dolori, sconfitte, restrizioni, mentre rompe tutti i tessuti affettivi e semina paura di essere richiamati e inviati in Russia, destinazione temutissima, spegne anche la voglia di fare dell'umorismo e ci obbliga tutti e tutte a discutere. Qui comincia, a mio parere, la resistenza, quando dal racconto, in fin dei conti un po' qualunquista delle barzellette, dalle sottolineature dell'ignoranza dei gerarchi, Starace era preso di mira da tutti per la sua stupidità, si passa a un delirio di domande, discussioni, previsioni, desideri, decisioni per il futuro. Per la prima volta la mia generazione sembra che forse è possibile decidere di sé e determinare il futuro. Praticamente questo al momento non è il 43, è prima. La resistenza inizia nella mente di questi studenti, nella mente delle persone, nel momento in cui il regime comincia a perdere. Sì, comincia sempre in modo abbastanza quello, per esempio. Io naturalmente ho studiato il liceo, di Novara, dove si chiama Carlo Alberto lì applicato, e quindi il liceo è installato a Carlo Alberto. Avevamo un professore di greco che era bravissimo, uno di Alessandria, che si chiamava Buzio, che è stato il cognome tipicamente alessandrino, faceva delle lezioni meravigliose sulla storia, sulla lirica, sul teatro, sulla tragedia. Allora, il lunedì mattina ogni professore e professoressa nella classe di ieri doveva, prima di cominciare la lezione, commentare i comunicati del governo. Lui, che era un opinione rigorosissimo, si dimenticava sempre. Finita la prima ora, che aveva lezione nella mia classe, finita la prima ora, diceva: ah, mi sono dimenticato, guardate un po' voi. Siccome si dimenticava sempre, e anche perché non si voleva leggere, insomma. Allora, segnato antifascista, ma no, mica antifascista, non è d'accordo, lui è uno che non è d'accordo, perché non bisogna pensare che a noi venissero in mente già le parole del lessico politico, sicuramente no, è uno che non è d'accordo. Beh, questo uno che non è d'accordo, una mattina, invece di fare, non so se Safo, Acceo o Senofonte o qualche cosa così, parla di Armodio e Aristogitone, mi ricordo ancora i nomi, i due tirannici di Atene, fa una lezione mirabile. Cosa mi è venuto in mente? Come mai non c'entra niente con la letteratura? Allora chiediamo al professore di storia e filosofia, perché il professore di storia e filosofia, che invece era non uno di Alessandro, un Monfrin, uno del Monferrato, un armadio uomo montanaro, pomelli rossi, capelli tagliati a spazzolo, si diceva allora per dire corti, all'Umberto, poi si diceva pure. E diciamo, il professor Buzzi ci ha parlato del modo di studitore, del tirannicidio, e poi lui con aria indifferente dice sì, è una tesi di Aristotele che anche San Tommaso accetta, che siccome il tiranno uccide il popolo per legittima difesa ha diritto di uccidere il tiranno. Ah, che ho detto, un altro che non è tanto d'accordo. Mettevamo insieme vicende di questo tipo. Creava coscienza, sì, creava sì. Capacità critica, da quelle poi nelle famiglie si discuteva. Non so, forse potresti leggere qualche cosa che riguarda. Io partirei con l'inizio proprio. Io spero che Naranti riesca. Ah. Ti va bene? Sì, poi, bene. Io spero che Naranti riesca. Nel 1945 mi fu consegnato un solenne pezzo di carta firmato dal generale Alexander, il quale diceva che Lidia resisté, oggetto di scherzi e risate da parte di tutti i miei familiari e anche mia, perché il generale Alexander, che per conto degli alleati sovrintendeva alla resistenza italiana, era da noi cordialmente odiato per la sottovalutazione che sempre ebbe di noi, fino a che nell'inverno del 44 non ci consigliò di tornare a casa e smise di inviarci qualunque aiuto. Nonostante quello del 44 sia stato un inverno impossibile, resisté, dicevano, nonostante il generale Alexander. Ricevetti anche dal Ministero della Difesa il brevetto di partigiana combattente col grado di sottotenente, che mi è molto caro, anche se fui stupita di avere subito dopo un congedo militare assoluto e illimitato, davvero come se volessero levarmi di tono senza appello, e nel contempo mi sono sempre chiesta come potessero congedarmi se non mi ero mai arruolata. Misteri della logica militare. In effetti avevo svolto attività di staffetta in Valsesia, in Val d'Ossola e sul Lago Maggiore, e attività di informazioni, soccorso ed evasione per i detenuti politici sotto la copertura assistenziale del patronato delle carceri di Novara. Avevo partecipato alla resistenza contro l'occupazione nazifascista, all'unica guerra nella storia italiana che è stata di popolo. Questo libro è rivolto alle ragazze e ai ragazzi, una testimonianza che li aiuti ad orientarsi nella modernità confusa e smarrita. Lo consegno ai giovani con le parole di Italo Calvino. Italo Calvino, oltre il ponte. O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrare ti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco, la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi non vuole chinare la testa con noi prende la strada dei monti. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e lacili, eppure felici. Avevamo 20 anni. E oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovrumano. Corri, abbassati, dai, corri avanti. Ogni passo che fai non è vano. Vedevamo a portata di mano oltre il tronco, il cespuglio, il canneto, l'avvenire di un giorno più umano e più giusto, più libero e lieto. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Ormai tutti hanno famiglia, hanno figli, che non sanno la storia di ieri. Io sono solo e passeggio fra i tigli, con te cara, che allora non c'eri. E vorrei che questi nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, rivivessero in quel che tu speri, o ragazza color dell'aurora. Avevamo 20 anni. E oltre il ponte che in mano nemica vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Poi Italo Calvino esprime molto bene questo stato d'animo, questo atteggiamento, che era anche l'appoggio popolare che noi sentivamo, perché eravamo lì che guardavamo oltre il ponte, avevamo discussioni a non finire da mattina, perché durante il fascismo era vietato discutere, quindi almeno lì, quando eravamo fuori dall'ufficialità, nella vita clandestina, come si diceva allora, discutevamo come pazzi, assolutamente. Io mi ricordo, diciamo, delle cose assolutamente giacobine, andavo in tranquillità, per il mio gioco. Certo che tutti dovranno avere lo stesso salario, tutti servono lo stesso per campare, no? Mangiare, dormire, un tetto sopra la testa, un vestito. Anzi, chi ha studiato all'università, siccome già l'hanno mantenuto gratis a più a lungo, dopo faccio un prestito d'onore per quelli che devono andare. Quindi ci pare del tutto naturale. Assolutamente pacifico. Quindi la delusione è stata poi molto forte anche per noi, perché invece subito dopo la fine della resistenza sì, ci sono stati naturalmente le celebrazioni, ma insomma, per esempio, c'è stata questa cosa curiosa che alla sfilata del 25 aprile 45 che si fece a Milano, si fece l'8 maggio, veramente viene chiamata quella del 25 aprile, fu detto che era meglio che le ragazze non partecipassero, che le donne non partecipassero. Stranamente fu Togliatti che disse sì, questa roba, dice, meglio che le donne restino a casa. E perché? Perché il popolo non capirebbe, cosa aveva da capire il popolo non si sa, ma evidentemente il popolo non avrebbe capito quello che Togliatti si aspettava, e cioè che noi, per essere state le ragazze che a 17, 18 anni, 19, uscivamo di casa a ore impensate, anche la notte, anche durante il coprifuoco, andavamo in giro per le strade da sola, magari dormivamo poi in un rifugio insieme a molti altri ragazzi, eccetera. Insomma, non dovevamo essere proprio molto virtuose, ecco. Quindi il sospetto c'era poi sempre. E questa esperienza, che fu straordinaria, di vero cameratismo, anche di amicizie affettuose, anche da ridere, battute, prendersi in giro anche in maniera molto intrinseca, non diciamo retorica, non, fu una delle grandi esperienze della resistenza nella storia italiana, dove il rapporto tra i due generi è sempre stato molto tradizionale, ancora di più lo era allora. Fu una delle rotture di costume forse più significative, pure anche in tutta la storia della resistenza, voi potete leggere, non se ne parla mai, se non sempre con quel vago sospetto di Togliatti che forse era meglio non dire. La foto della sfilata di Milano, venne fatto sette uomini in prima fila, sono i sette segretari dei sette partiti del CNN. C'erano tutti, persino i monarchici. Quando è stato fatto il referendum del 4 dicembre, ci sono messi su dei comitati e il presidente del consiglio, che era Renzi in carica, dice che ci gravava una cozzaglia. È vero, il CNN fu una cozzaglia, perché c'erano dentro tutti, anche i monarchici. E discutevamo, eravamo unitari, ma niente affatto unanimi, discutevamo selvaggiamente, poi si votava e si faceva quello che la maggioranza aveva deciso, ma le cose rimaste in minoranza non venivano cancellate, alla prossima discussione si poteva riprenderle, perché la maggioranza poteva anche cambiare. Questo era veramente vero confronto, è da lì che nasce. È la vera democrazia. Per quello poi avevamo avuto tante delusioni quando subito dopo il tentativo fu quello di ripristinare tutto, ma tutto che cosa? La piccola democrazia albertina, lo statuto albertino, capite bene, era un ritorno all'indietro miserabile proprio. E quindi i no continuarono. Ma certo, assolutamente. E quindi, cioè, dovete pensare poi che avevano a che fare con uomini e donne che avevano davvero combattuto per un'Italia democratica. Sì, ma cioè, lei non solo aveva combattuto, lei aveva anche molto pedalato. Sì, sì, certo. Certo, no, ma vuol dire, quindi per esempio, no, l'Italia democratica, così, il patriottismo, ecco, la resistenza non fu un movimento patriottico, mi spiace di deludere proprio magari molti, perché durante il fascismo il patriottismo in realtà usciva dalle orecchie. Non dicevano altro che l'Italia è più grande di tutta l'Italia, la gloria d'Italia, non se ne poteva più. Tanto che nel parlare comune, quando una barzelletta non faceva ridere, si diceva, è scema ma patriottica. È bellissimo. A me piace molto far vedere che anche tutta questa coscienza politica dei diritti si viene formando, ma non attraverso chi studia per avere canto e poi sai questo e quell'altro, no, assolutamente no. Anche lo spirito critico, allora posso raccontare questo episodio del tutto, certo. Magari mi metto qualcos'altro poi da leggere, non lo so. Dimmi tu, vai. Ma, allora, il libro di scuola era naturalmente di Stato, certo. No? Allora, il libro era il primo della seconda elementare, la prima pagina c'è un signore alto con una barba lunga che era il filosofo, al quale due erano un bambino e una bambina che lo guardavano così dal basso in alto, gli domandavano qual è la prima virtù del fascista, e lui rispondeva l'obbedienza, per molto in pagina, qual è la seconda virtù del stesso disegno, qual è la seconda virtù del fascista, l'obbedienza, terza pagina, qual è la terza virtù del fascista, perché non avevano capito che era l'obbedienza, era proprio un po' indietro, insomma. Ma lì, sulla quarta pagina invece c'era una poesia di Mussolini. Questa poesia è amata in pagina. Allora, una pizza, naturalmente, nella scuola sarebbe un po' noiosa, ma comunque, io vado a casa e racconto questa cosa e appena mia mamma sente amate il pane, dice, ma è il companatico? Questo è lo spirito critico. Certo, giusto. Chi nasce dice, ma come sarebbe? Noi dobbiamo essere contenti di obbedire e mangiare un po' di pane. Non pare che sia. Adesso gliela facciamo leggere. Sì. Ma io pensavo di leggere prima, se sei d'accordo, gli anni della tua formazione. O vuoi che passiamo? No, per me è lo stesso, sono senti loro che si perdono. Se no andiamo al pane. Andiamo al pane allora. Anche sul risorgimento e sul processo di costituzione dello Stato italiano il racconto era molto di parte. Pochissimo si diceva dei federalisti lombardi e si neggiava in Savoia e si denigravano tutte le altre dinastie che erano state spesso migliori. I Savoia venivano studiati secondo la storiografia di Coite e chiamati con nomi elogiativi tipo padre della patria, Vittorio Emanuele II, e re buono, Umberto I. A me giocò molto il giudizio critico che circolava in famiglia, perché sul padre della patria, già il nonno paterno, scuoteva il capo e diceva sì, molto padre. madre della patria, metteva incinte tutte le ragazze che incontrava quando andava a caccia delle sue riserve. E sulle buone poi, diciamo stare. A casa era venerato uno zio materno che aveva fatto da padre a mia mamma, rimasta orfana bambina, con grande generosità e dolcezza. Lo zio Luigi, anarco-sindacalista, era perciò considerato un esempio. Tra gli episodi che ci venivano trasmessi vi era che, quando nel 1900 Bresci uccise Umberto I, gli aveva mandato un telegramma di felicitazioni. «Bravo Bresci!» firmato Luigi Vercesi. Naturalmente era arrivato un ispettore. Zio Luigi era ferroviere e quindi dipendente statale, e tutti i ferrovieri del dipartimento di Novara, anche quelli meno politicizzati, testimoniarono: sì sì, eravamo tutti lì che festeggiavamo, lui aveva bevuto un po' di più e ha mandato il telegramma. Il comportamento dei ferrovieri documenta la solidarietà di quella che era una delle più organizzate e compatte categorie operaie, ma anche quanto fosse odiato Umberto I. Quando nel 1933 a scuola studiammo il Re Buono, alzata la mano, dissi che a casa mia non era considerato tale, e la maestra mi zittì: non era ammesso di sentire nella scuola fascista. Mia madre, che teneva conseguenze pericolose, se mi avesse detto il vero, mi spiegò che a scuola cercano di far fare buona figura alle persone che ritengono importanti, e che forse la maestra voleva dire che il re era tre volte buono, che da noi significa scemo, ed era l'appellativo popolare di Umberto I. Il libro di testo, uguale in tutte le scuole del regno, si apriva così: un bel disegnino del Barilla o della piccola italiana, ai quali un saggio diceva e chiedeva: qual è la prima virtù del fascista? L'obbedienza, veniva risposto. E la seconda? L'obbedienza. E la terza? Ovviamente l'obbedienza. Seguiva una poesia di Mussolini: amate il pane, sudore della fronte, luce della mensa, gioia del focolare, o qualcosa di simile. Ed eccola qua: Benito Mussolini, amate il pane. Amate il pane, cuore della casa, profumo della mensa, gioia del focolare. Onorate il pane, gloria dei campi, fragranza della terra, festa della vita. Rispettate il pane, sudore della fronte, orgoglio del lavoro, poema di sacrificio. Non scippate il pane, ricchezza della patria, il più santo premio alla fatica umana. Il companatico. Mancava era la domanda di mia madre, che era più impetuosa di mio padre, quindi nell'antifascismo lei era più vivace, mio padre era più compassato. Potrei forse poi qualche domanda? No, vai. Racconto quella di Nutella. Sì. Allora, anche perché dobbiamo, poi usciamo con la tua biografia, usciamo dalla tua esistenza, quindi. Quindi. Comunque. Lungo. Vuoi raccontare? Sì. Del papà. Di tuo papà. Allora, mio papà e mia mamma erano due caratteri molto diversi. Mia madre era molto più impetuosa, mio papà molto più riflessivo. Allora, quando si trattava di Mussolini, mia mamma lo chiamava Cullà. In Piemonte al Presidente del Consiglio non si dice cullà, perché noi piemontesi siamo molto rispettosi dell'autorità, quindi il Presidente del Consiglio, non capo del governo, che è stato da Mussolini, ma non era giusto, ma cullà no. E quando poi Mussolini faceva una più grossa del solito, lei diceva cullà che parla dal Pugge, quella che parla dal balcone, perché popolarmente da noi, quando uno spalanca le finestre, si aperta il balcone e arringa la folla, viene detto matto clinico. Come dire matto? Allora, io ho una sorella che ha 3 anni meno di me, avevamo come compagni di classe due sorelline che erano della stessa differenza d'età, che si chiamavano una Esther e una Ruth. Eravamo molto amiche, venivamo spesso a fare i compiti da noi, non avevamo più loro. Le famiglie si scambiavano queste cose. Un giorno andiamo a scuola, loro sono assenti, allora non si poteva usare il telefono per motivi scolastici allora, invece pedala vai a raccontare cosa è successo. Infatti mia sorella e io usciamo di scuola, andiamo a casa di questi due ragazzi, suoniamo, viene la loro domestica e noi diciamo siamo venuti a portare i compiti alla estera, naturalmente alla perché nel nord si dice sempre con la l'articolo. Sì. E la loro domestica dice non servono i compiti, tanto non verranno più a scuola. Io dico perché? Perché sono ebrei? Io non capisco cosa dice. Cioè, non vengono a scuola perché sono ebrei. Ciascuna parola è comprensibile, tutte le parole facili, ma la frase senza senso. Non vengono a scuola perché sono ebrei, cosa vuol dire? Salutiamo e ci ritorniamo. C'è la mia sorella con me, siccome sono la maggiore, cioè adesso devo spiegare alla Isa, mia sorella, se la faccio una che figura faccio. Io che sono la più grande, non ho capito. Quindi, allora, penso un po' e poi dico. Quella lì, cioè la loro domestica, è proprio una ragazza di campagna, un po' indietro, insomma, non sarà mica una malattia infettiva essere breve. L'unica spiegazione che bisogna darmi, perché allora se faceva il morbillo, la scarlattina, l'autosegnale, stavi 40 giorni via da scuola, perdevi tanti di quelle lezioni che mi sarei bocciata, quindi non serviva più. Arrivando a casa io stessa mi rendo conto che una spiegazione che posso giusto dare a una mia sorellina che mi ascolta perché lei è la più piccola. E a tavola ripresento la cosa, mia mamma comincia a cullare con là, mio padre mi dice, beh, veramente, non che io lo intenda giusto, ma insomma, hanno fatto una legge a Roma che possono andare a scuola solo gli ariani. E a questo punto dicono, ma chi sono gli ariani? E mentre mia mamma continua a sacramentare, mio padre un po' dice, mi vergogno, siamo noi. E allora perché ci vergogniamo? Ha spiegato questa cosa delle leggi razziali, perché infatti avevo già cominciato a impedire a chi era ebreo di andare a scuola. Alla fine dell'anno portavo a casa la pagella, mia mamma dice, siete state promosse, sì. Cosa c'è scritto di razza ariana? Strappate la pagella. Altra cosa che in Piemonte non si fa. L'ho proprio scelta io questa qui. Sì. Vorresti leggere? No, se sei d'accordo, perché l'ho proprio scelta perché è significativa. Il primo accenno di coscienza politica contro nacque durante le elementari dal fatto che mio padre, come spesso facevano i piemontesi allora, usava a comprare anche un quotidiano francese e io leggevo avidamente la cronaca. Mi ricordo, mettevo il giornale aperto sul tavolo in cucina, mi ci stendevo di pancia e compitavo, cercando di capire le parole e ricorrendo a mia madre per ciò che non riuscivo a decifrare. Mamma, cosa vuol dire carbonier? Chiedevo. E lei, charbonnier, vuol dire carbonaio. E tu, uccide. E femme, moglie. Il carbonaio che uccide la moglie e la brucia a pezzi nella parigina. Appunto, una di quelle stufette a carbone lunghe e strette che andavano di moda. Mi affascinava, precoce segno di una passione per i gialli che ancora non mi ha abbandonata. Visto che in Francia succedevano tanti così bei delitti, finì per chiedere a mio padre come mai in Italia no. E lui mi rispose, ci sono anche da noi, non ti preoccupare, ma è vietato scrivere. Che paese noioso, mi venne da pensare, e posso dire che sia stata la mia prima increspatura di coscienza politica. Poi fu vietata la vendita anche dei giornali stranieri, a parte quelli in tedesco. C'era il fastidio di doversi vestire in divisa da piccola italiana e andare a scuola così bardata. E c'erano la marcia e gli esercizi del sabato pomeriggio, ma la coscienza vera nacque quando un giorno due ragazzine coetanee, rispettivamente mia e di mia sorella, e nostre compagne di classe non si presentarono a lezione. Si chiamavano Esther e Ruth, e Isa e io eravamo molto invidiose dei loro bellissimi nomi esotici che attribuivamo a nient'altro che alla fantasia dei loro genitori. Allora non si aveva accesso al telefono per i compiti, ma si usava le casse a casa della compagna assente a portarli, e così facemmo quella volta. La domestica ci avvisò che i compiti non servivano perché le due sorelline non sarebbero più andate a scuola. Domandavo perché, e ci fu risposto, perché sono ebree. Ricordo come fosse oggi che mia sorella e io letteralmente non capimmo che cosa la domestica volesse dire. Intendevamo una parola dietro l'altra, ma non il senso. Tanto che commentammo che stupida ragazza di campagna, non sarà mica una malattia infettiva essere ebrei. Dato che l'unico motivo che potevamo immaginare per stare a lungo via dalla scuola era il morbillo e la tosse canina. Di nuovo ponemmo la questione a mio padre, il quale ci spiegò che le leggi vietavano a bambine e bambini ebrei di frequentare la scuola e che ci potevano andare solo gli ariani. Gli ariani? E chi sono, papà? Domandai. Noi siamo, rispose papà. Mi vergogno a dirlo. E io mi vergogno di vivere dove una, se si chiama Esther o Ruth, resta ignorante. Il massimo che riuscivo a pensare era che, appunto, che le nostre compagne non potessero studiare. Quando alla fine dell'anno portai a casa la pagella con su scritto di razza ariana, mia madre, dopo avermi chiesto se ero stata promossa, mi disse di strapparla. Perché non siamo animali e le razze sono solo equine, bovine, suine e canine, eccetera. Era la stessa frase di Einstein, lei non lo sapeva, ma quando Einstein lasciò la Svizzera, andò negli Stati Uniti per timore dei giudiziari, perché lui era ebreo, gli fecero poi la domanda all'interno degli Stati Uniti. Razza, e lui si dice umana. Allora, un'altra cosa che Lidia faceva quando era staffetta, l'ho accennato prima, era i chilometri in bicicletta. Al punto tale che a un certo punto dice sicuro dopo la guerra. Mi scrivo al Giro d'Italia. No, dunque la bicicletta è un'immagine che viene sempre accostata alle staffette, perché in effetti io non una cosa si faceva, io avevo una vecchia bicicletta che intanto era proprio diventata presentabile, perché oltretutto anche per avere il copertone bisogna usare la tessera, quindi erano consumati, i freni tenevano poco, il fanale si accendeva, perché era una bicicletta che si fermava contro un muro se io andavo piano piano a rallentarla. Sicché quelli della mia formazione pensavano di regalarmi una bicicletta, cosa che mi piglio l'orgoglio, e mi dissero: l'abbiamo prelevata, può regolare buono il prelevamento, secondo me era un'attività. Peccato che io avevo molta paura, girando in bicicletta, perdonate, che non è fuori così, quella lì è mia, perché non successe mai. Ma questa bicicletta aveva il cambio, che allora era una grandissima novità, la bicicletta doveva avere un cambio. Una Bianchi? Sì, una Bianchi. Una cosa per l'acqua mirabile, appena cominciava la salita, e via cantavo. È lì che ho concepito questo folle sogno, dico, quando finisce la guerra mi scrivo al Giro d'Italia, magari maglia nera, ma arrivo per un po'. Poi mi sono rinunciato. Però mi ricordo i chilometri che facevo in bicicletta, perché a un certo momento dovevo saltare il ponte sul Ticino, quindi per andare da Novara a Milano passavo per la Nazionale, poi c'era un ponte di barche, ma andavo a Milano all'università, ci andavo in bicicletta. Poi c'era un camion di un signore che mi faceva, che aveva un mulino da farina di vicino a Novara, che davanti all'albergo stava lì ad aspettare se le novarelle dovevano tornare. Quindi ogni tanto uscivo dall'università, salivo, mi sedevo su questi sacchi di farina con la bicicletta infilzata lì e andavamo fino a, poi se stava giorno d'arco come proseguire, perché andava a Suno e a Borgogna e da quelle parti dove c'è appunto ancora il suono. Era un modo di vivere tutto molto avventuroso, in verità, perché già il fatto stesso che ci fossero i bombardamenti la notte, per esempio, quindi tutti stavano lì a dormire. Quando era una notte di luna, sicuro veniva il bombardamento, veniva l'allarme. Tutti avevano pronto una borsa con dentro i soldi, i gioielli, i documenti, un panino, una mela, un po' di vino. Si scendeva in cantina, dove appunto le donne anziane ricevono il rosario, il signore un po' appena spettacolavano, i ragazzini si saltellavano di qua e di là, e quelli più scriteriati, tra i quali mi annoveravo sempre, andavano fuori a vedere le bombe che venivano giù, perché sembra impossibile, ma quel curioso essere vivente che si chiama animale politico, come lo chiamavano i greci, è un po' stravagante effettivamente. L'essere vivente è un animale politico, invece l'ha diventato quasi tutto, vuol dire cioè che vivono nella polis, certo. Mentre gli altri esseri viventi, gli altri animali, vivono lì dove nascono, nell'acqua, in aria, nel bosco. Questo strano politicon zoon, questo strano animale politico, si è costruito una casa per sé, una polis, la chiama polis, e quindi è politico, cioè cittadino. Andando avanti ancora un po', c'è un'altra battuta su greca che proprio non sono capace di risparmiare, perché naturalmente non tutti si occupavano delle cose politiche, non tutti erano polites, c'erano anche quelli che si occupavano delle cose proprie, che in greco si dice idia, ta idia, le cose proprie. E quelli che si occupano delle cose proprie, chi sono? Idiotes. Privato in greco antico si dice idiotes. Cioè, chi si occupa solo delle cose proprie non capisce niente delle cose comuni. Quindi proprio il non fare politica, non avere interesse per la sorte comune, rende più scemi. È una cosa che non ha influenza, ma guarda che è vero però, è vero. Perché quanto più si è stimolati a occuparsi anche di eventi che succedono, c'è una strada che non funziona, c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, c'è un quartiere che è disturbato, eccetera, si diventa un po' più stupidi. Dopo un po' si dice, ma non sarà possibile farlo, se vediamo se c'è qualcuno che riceve, io ricevo una quantità di mail, e per esempio adesso c'è una mail che continua a dire, firma anche tu questa petizione, vogliamo chiedere al Presidente della Repubblica che non so cosa faccia per le scuole. Allora, non si può, è insensato, il Presidente della Repubblica non può occuparsi della riforma scolastica, non deve, perché il suo compito è un altro, quello di essere garante della Costituzione. Quindi chiedere questo al Presidente della Repubblica è come farlo diventare Presidente di una Repubblica presidenziale, dove lui si dovrà occupare di tutto, insomma anche della portineria del teatro d'Italia. Non c'è verso, perché oramai è tale il livello di analfabetizzazione politica in cui siamo riprecipitati, che veramente si fa fatica a far capire delle cose semplicissime. E questa è la ragione per la quale è peccato non occuparsi un po' di più anche delle scuole. Questo modo di accentuare gli aspetti tecnici, ma anche questi, io sono d'accordo che il lavoro manuale insegna tanto come il lavoro intellettuale, è molto importante, se lo gestisce movimenti, la gestione dei movimenti, il significato di premio, ottiene una cosa, eccetera. Però bisogna sapere perché. Una scuola che dice schiaccia il bottone blu, ma non dice perché, è una scuola che tiene l'ignorante. Una volta uno qualsiasi cambia il colore del bottone non sa più cosa fare. E insegnare il perché, rispondere alla. Sembra quasi persino che sia calata, mi dicono, io non me ne intendo, non mi occupo più di queste cose. Che sia calata la curiosità infantile piccolissima. È noto che già dei perché, era una volta una palla colossale per i bambini, perché, sempre il perché, soltanto che intanto si sta zitto per piacere. Invece adesso pare di no, che non chiedono nemmeno più, perché se non può ricordare, brontolano un po', imitano i grandi, e, insomma, peccato. Sono anticipati. Ah. Sono semplicemente cellulari. Anticipati, la stimolazione arriva prima ancora della domanda. Ah, provate a pensare, cioè la televisione, gli stimoli visivi, il telefono, il cellulare, cioè questa società liquida, i genitori stessi forniscono. Sono anticipati, come fanno a sapere che a me piacerebbe sapere quella roba lì, no? Ah, perché ormai è obbligatorio diventare bombardati che non hanno più neanche il tempo di formulare però c'è una scuola, se una scuola educa, dei genitori educano in qualche modo, si arriva a fare quello che stai dicendo prima, assolutamente questo è il la funzione. Ma infatti per le scuole il meglio sarebbe levare la maggior parte delle leggi. Sì, è ritornare. No, quest'anno studiamo questo periodo, quest'anno così vediamo questa cosa, questo problema, perché studiando bene una cosa se ne imparano moltissime altre. Soprattutto si impara come si fa a capire che la cosa può essere per qualsiasi cosa ti metti in giro. Ma è appunto la differenza tra istruzione, tra istruire ed educare, sì. No? Cioè sono due cose ben diverse. Educare vuol dire dare la capacità di scelta a chi abbiamo di fronte e i nostri alunni. E la scuola dovrebbe... Comunque io sono favorevole che la scuola sia prolungata al massimo. Sì. Comunque è sempre meglio andare a scuola che no. Quindi andare a scuola a lungo, tutti e tutte. Tutte e tutti. Tutte e tutti. E prima di tutte. Allora, intanto bisogna sempre dire buonasera a tutti e a tutti. Buonasera a tutti. Perché? Perché bisogna dire tutte e tutti? Perché prima è femmina. Ecco, qualcuno l'ha detto. Perché ci sono due generi. Eh certo. E tu dici tutti, io un centro. E il genere che non viene nominato è la maggioranza. Le donne sono più degli uomini. All'ultimo censimento fatto in Italia nel 2011 risulta che le donne sono 2.300.000 circa più degli uomini, mica neanche robine, insomma. Quando si distribuiscono i posti nessuno più si ricorda che le donne sono figli, ma nemmeno per dire buongiorno e buonasera. Buonasera a tutti, che è normale. Io la considero una rivanata, cioè io mi sento offesa perché me non mi saluti nemmeno. Infatti protesto sempre tutte, tutti. Ma poi perché prima tutte? Allora, perché nelle case dei galantomani prima le donne, poi gli uomini, rigorosamente non dicendo una doppia contrazione, dove si devono doppia se la strutturare. Infatti c'è il maestro l'università per insegnare la giusta espressione, dice, ragazzi, battete il doppio. Comunque. Allora, ritorniamo un attimo alla fine di questa esperienza, perché qui dobbiamo un po' concludere. Hai altro da leggere tu? Possiamo... Se vuoi, con la biografia tu avevi... Sì, è perché devo introdurmi la biografia. Ma non so, voi facciamo vedere la tua. Perché io ho questa bellissima frase, non posso non leggerla, è meravigliosa. E quando sarà finita, bisognerà ricominciare a lavorare. Ci saranno i partiti, ci sarà la libertà, ci sarà la democrazia, cioè dovremo fare la libertà, dovremo fare la democrazia. Il che significa, avendo visto che cos'è la violenza, che cos'è la tortura, che cos'è l'oppressione, dovremo agire perché queste cose non esistano più nella vita del nostro paese. O quando dovessimo sospettare che possono ancora esistere, non stancarci di protestare, di combattere, perché scompaiano, perché vengano represse e punite. E infatti lei così ha fatto tutta la vita, sì, lo sta ancora facendo. No, guardate che sennò ci si annoia, no. Ma questo è vero. Dal momento che poi a me anche questa parte, diciamo più di rifare la democrazia, fare questo e quell'altro, non piace cattedraticamente, ma preferisco con esempi, con cose, con un linguaggio così, diciamo da scuola media, è anche più divertente, non è un modo noioso. Per esempio, se si può avere come sfondo un romanzo giallo, io sono una giornalista sfrenata, assolutamente, fin dal tempo che mi pare comprare il giornale francese, io andavo sempre a cercare la cronaca nera, prima di tutto. Non sono raffinata, qualsiasi giallo, non sto a cercare i capolavori, no, qualsiasi cosa. Proprio quello classico dove poi l'assassino è la domestica oppure... l'autista, quello del maggiordomo, addirittura un classico. questo mantiene la curiosità, che non è una cosa banale, è proprio questo, conservare sempre l'idea che bisogna chiedere perché, perché, perché, perché. E questo consente tra l'altro di avere sempre una relazione. Io adesso non voglio fare dei pettegolezzi così, ma conosco tanti matrimoni che sono una noia mortale, non hanno niente da dirsi, passano le giornate, si potrebbe dire domani come oggi, ieri come domani, ripetendo le stesse cose, anche litigando sugli stessi argomenti. Almeno nel litigare un po' di fantasia non costerebbe, insomma, sarebbe più divertente anche quello. Infatti, ma sono d'accordo. Anche le relazioni tra le persone sono una cosa senza fine, e a me è sempre piaciuto di elogiare del linguaggio politico, anche lo sberleffo. Io ho scritto anche un pezzetto elogio dello sberleffo politico. Se tu riesci anche a introdurre uno sberleffo, a parte che è più efficace, poi ti diverti, tu qualche volta scopri che una persona sulla quale tu hai un giudizio così negativo che gli hai buttato addosso uno sberleffo, se risponde senza arrabbiarsi, magari trovando anche il modo a sua volta di fare uno sberleffo, vedi, hai scoperto che c'è una curiosità anche da quell'altra parte e più intelligenza di quanto non ti aspettassi. Tutte le volte si trova più intelligente di quello che ti aspettavi, è un bel giorno. Certo, siccome ci sono più stupidità di quello che no. Evitare di contribuire a questo, che anche perché la stupidità, adesso ho proprio finito, è uno dei pericoli massimi. Soprattutto in questi tempi. Come? Sì, in questi tempi. In questi tempi si spreca. Perché? Si spreca. La stupidità ti toglie la possibilità di fare domande, ti contentano via subito con una risposta qualsiasi, ma aspetta, sta visto zitta, non vuoi mai sapere, e intanto chi ha il potere decide, non è che sta lì, anche lui tranquillo a dormire. Stupidità, poi ti ritrovi, la cultura, certo, poi ti ritrovi per una decisione già presa, che è molto difficile di fare. Però io sono sempre convinto di una cosa, insomma, guarda, noi, ai tempi della resistenza, eravamo ignoranti come capre dal punto di vista politico e anche di limitati orizzonti, perché tra l'altro non potevi neanche andare all'estero, non ti davano un passaporto, non c'erano i soldi, non c'era l'abitudine di fare dei viaggi e così. Se siamo riusciti a fare resistenza noi, può farcela chiunque. Ma veramente, no, veramente. Non eravamo persone eccezionali, nemmeno dal punto di vista del coraggio, perché appunto, come ripeto, la paura era tanta. E io ricordo con grande accoramento ancora oggi un mio compagno d'università, che era intelligente, sarebbe stato il più grande filosofo italiano della seconda metà del secolo scorso se fosse campato, e lui era uno molto schivo. Faceva la lotta partigiana nelle Langhe, e un giorno, per coprire la fuga degli altri, rimase ultimo e fu ucciso. Io intanto cito appunto questi, diciamo, morti sconosciuti, queste persone che hanno lasciato di sé un'immagine così troncata, così misteriosa, così incerta. Cosa ci è mancato, quanto ci è mancato, per esempio anche per cose di questo genere. Quindi, in una vita come quella che viviamo oggi, dove molte volte ci sono incidenti scemi, tragicamente stupidi, molti degli incidenti sul lavoro lo sono, adesso questi qui che sono stati investiti da un camion su, sì, perché il cantiere non era credo abbastanza segnalato, non so perché, ma insomma, è possibile mai tollerare una cosa di questo genere? Non bisogna lasciar passare niente. Brava Liti. Neanche il Papa. Ricevo sempre un applauso, perché io sono molto critica nei confronti di Papa Francesco, perché è un papa neotemporanista, lui è un re più che un pastore, è talmente un re che è un capo di Stato, diciamo così, che quando ho avuto andare alle Nazioni Unite è andato a parlare al Consiglio di Sicurezza, Paolo VI è andato a parlare alla Commissione Etica. La Commissione Etica è quella dove sono, ci sono tutte le religioni che vogliono essere considerate internazionalmente. Al Consiglio di Sicurezza parlano i capi di Stato. Papa Francesco parlò al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una volta c'è un'assemblea, durante la campagna elettorale di Trump, e difese i medici, i violenti medici antiabortisti degli Stati Uniti. Ha fatto questo. Anche questo 1.800.000 persone che ha messo insieme, mentre tutti gli altri capi di Stato, tutti in una volta, 10.000 seppure, ma possibile che non sia stata calcolata? Ma come lui fa, un giorno prima del 60 anni del Trattato d'Europa, una cosa così, e non è calcolata, non è una mossa che segnala un potere assolutamente inarrivabile. Assoluto. È sicuro, è sicuro. Tra l'altro, mentre tutte le manifestazioni sono un po' sbrindellate, non particolarmente eleganti, i riti della Chiesa Cattolica sono una raffinatezza, musiche, cori, tutti in fila, tutti si muovono, insomma, non c'è stato un grido, tutti con un fazzoletto bianco e giallo, una cosa, persino la più di destra, che era la presidente del Consiglio della Polonia, vestito di giallo. Però tutto questo mette una chiesa costantiniana in gara con gli stati, e quindi c'è una forte violazione di punti di laicità a cui si era arrivati. Sì, nonostante io, concordato, voglio dire. Io sono convinta, no. Quando dico questo, veramente dicevo applausi, sono convinta che fino a quando non facciamo un referendum per abrogare l'articolo 7, l'Italia non è un paese laico. Sono d'accordo. Assolutamente sì. E in questo sei d'accordo con Gerardo Colombo, l'ha proprio detto l'altro ieri. Con chi? Gerardo Colombo. Ah, certo, sì. Certo. Stessa identica cosa. Bene, bene. Che altro dire? Se volete vi leggo tutta la sua biografia, ma ci vorrà. Io direi, se sei d'accordo, gli anni della tua formazione. Come ti sei formata? Ah sì. È un passaggio che io ho scelto perché. Sì, sì, no. Mi sembra. Però in generale questo non si sfondano. Io direi questo. Allora, gli anni della formazione di Lidia. La mia famiglia era di tradizione repubblicana mazziniana da parte di mio padre, anarchica da parte di mia madre, e questo ci forniva un buon margine di sospetto verso la politica ufficiale, perché eravamo state allevate ad aneddoti sui Savoia, ignoranti come capre e prepotenti o stupidi. Quando iniziai le scuole elementari nel 1931, nonno era fascista. All'era di Cristo bisognava aggiungere quella fascista, modesti. Già era obbligatorio iscriversi alle organizzazioni fasciste per bambini e bambine, altrimenti non si poteva frequentare, sicché quando mi iscrissero alla prima elementare, insieme divenne una piccola italiana e ricevetti la relativa tessera. Le classi erano numerose e le maestre per lo più di formazione prefascista e pedagogicamente autoritarie, comunque donne preparate e con una forte coscienza di sé e della propria funzione sociale. Molte capivano che la scuola era ineguale e perciò favorivano le bambine povere e di ceto poco colto, prestando loro particolare attenzione. Le differenze sociali erano molto visibili. I miei ci mandarono tutti e tre, mia sorella, il fratellino e me, alle scuole pubbliche, sia perché eravamo laici, sia perché convinti che bisogna abituarsi a stare insieme, ed inoltre che le scuole dei preti e delle suore, a parte quando si occupavano di orfani o abbandonati, erano per i ricchi e davano una formazione che, oltre all'obbedienza, virtù carissima al fascio, allenava anche la gratitudine, mentre i miei erano dell'opinione che non bisogna essere grati per aver avuto soddisfatti i propri diritti. Per quelli è solo giusto alzare la voce se non vengono rispettati. Mi ricordo una delle prime sottolineature di differenza sociale, quando una bambina molto pettegola, sempre vestita di abitini inabitati, grembiulini vezzosi e coi capelli riccioluti, protestò perché la sua vicina di banco puzzava di aglio. «Ma è perché la menona la fa il frigiolino con l'aglio?» si difese vibratamente la ragazzina. E riferito l'episodio a casa, tutti convenimmo che le frittelle di patate con l'aglio erano buonissime e che la bambina aveva ragione a riferire la cucina della nonna. La scuola era uno spazio di buoni sentimenti sovrabbondanti, diciamo alla De Amicis, era tutta un inno al fascio, e le maestre ci insegnavano subito a cantare Giovinezza e Balilla. A me comunque andare a scuola piaceva moltissimo. Ebbi come prima maestra, nei suoi ultimi anni di insegnamento, la signora Rachele, la stessa che all'inizio della carriera aveva fatto scuola a mia madre. Era stata una maestrina dalla penna rossa che aveva bravamente portato a termine una gravidanza avuta dal direttore, un prete spretato sposato con cui coraggiosamente convisse poi tutta la vita. Non c'era divorzio. Di lei si parlava sottovoce, ma mia madre l'ammirava moltissimo. L'insegnamento si faceva ogni anno più insistente dal punto di vista dell'indottrinamento politico, e la storia ci veniva insegnata, ora me ne rendo conto, secondo una sorta di compromesso tra il regime, la dinastia e la Chiesa. Grande enfasi sul concordato del 29 e Mussolini definito l'uomo della provvidenza. Ma nessuna notizia dei disordini scoppiati già nel 31 tra giovani fascisti e giovani cattolici, con scontri anche fisici, nei quali pare che i giovani cattolici avessero porto poche guance, ma dato pestoni energici e convinti. Erano enfatizzate le solenni encicliche contro il comunismo ateo. Non venivano ricordate invece quella, sia pure più limitata, contro il fascismo. La non abbiamo bisogno nella mia prendere sorge contro il nazismo. Allora, se fanno una domanda? Sente. Sì. Buonasera. Lei mi ha ricordato, stando ascoltandola, che avevo un debito e adesso mi voglio veramente sdebitare. Lei ha parlato della paura prima della liberazione, anni del 45. Io dico, ma come mai non ho avuto questa paura? Sono nato nel maggio del 45. Dico, caspita, la liberazione mi ha dato questa bellissima situazione di non provare alcuna paura. Proprio adesso ufficialmente la ringrazio, lei e le sue compagne di cuore, e per me la liberazione in questo momento ha un altro significato. Non lo sapevo, questa sera l'ho appresa e devo dire che è una bellissima cosa. Non ho mai provato paura, quindi vuol dire ci avete liberati veramente di un grosso peso per non averlo provato. Grazie. Bella cosa. Sono altri che vogliono una parola? Posso? Sì. A proposito di paura, posso darle tu? Sì, certo. Capita di sognare ancora questa paura, di trovare qualche volta questo sentimento di paura nel sogno, così. È rimasto qualcosa in te fisicamente di questa paura? Dunque, io adesso non lo so, ma io a occhi chiusi non sogno mai. No, non ricordo. Mi ricordo un sogno che mi si ripeteva quando ero ragazzina, probabilmente sogno, ma non me lo ricordo mai. A occhi aperti sogno molto, ma a occhi chiusi no. E anche queste memorie della paura, no, mi sono rimaste soltanto come, se ho paura io no, non mi vergogno a dirlo. Addirittura c'è stato un periodo che abitavo a Roma, in un quartiere che non mi piaceva tanto, in una casa che non era tanto sicura. Sentite. E ogni tanto mi aveva questa idea scema, ci sarà qualcuno sotto il letto. Ma invece di andare con paura a coricarmi, io guardavo sotto il letto. Non bisogna avere vergogna di avere paura, insomma. Quando una paura è meglio che lo dica. E l'unico modo di superare la paura è di vedere se c'è qualcosa per davvero, lo dico a qualcuno. Se già in due si hanno paura. Però la paura è stata una compagna molto importante in una terra resistenza. Nonostante tutto quello che raccontano gli eroici combattenti, io sono convinta che molti hanno volato le grandi paure, anche se non c'erano a dirlo, ma perché è ovvio, sono sempre questa immagine eroica delle cose storiche, che però fanno parte di una trasmissione non vera degli eventi. La storia che noi studiamo è una storia monca. Gli egiziani hanno fatto le piramidi, cosa mangiavano intanto che tiravano sulle piramidi? Com'è che gli antichi hanno fatto delle opere pubbliche così straordinarie, il Colosseo? Perché c'era la schiavitù e i lavoratori non venivano pagati, e si faceva il prezzo a fare un monumento, però gli da mangiare un pochino quando morivano poi. Catoni, degli agricoltori, dice che alla fine dell'anno per fare i conti e vedere quanto grano è prodotto, quanti schiavi vecchi devi vendere perché stanno per morire, meglio vedere che non ci sono morti in tutto. Catoni, personaggio illustre. C'è questa non considerazione della vita che viene continuata, perché ancora adesso non è che noi quando studiamo la storia studiamo che cosa facevano i contadini ai tempi di Pericle, cosa mangiavano i greci, cosa mangiavano gli egiziani, e delle donne, chi ha mai sentito parlare nella storia? Sì, qualche regina, qualche tipo un po' stravagante, ma generalmente le donne che non facevano parte del potere, pure la riproduzione della specie umana con un piccolo evento maschile iniziale viene praticamente svolta e non viene considerato nemmeno per meno questo minimamente. Con la biografia, non lo so, cioè, perché secondo me si sta andando benissimo. No, quanto che anche loro non avete altre domande, se no temo confronti. Se c'è qualcuno che vuole fare una cosa, venire viva la paura, scusa, non sia una cosa sbagliata. No, io continuo a mantenere viva la paura. La paura. Perché quello che c'è intorno mi sfugge, non lo capisco più, ragione per cui ne ho paura, in qualche modo. Questo sottofondo ce l'ho anch'io da qualche tempo, dopo mi sono detta, con tutte le analisi del caso, siamo in una fase in cui per errore potrebbe scoppiare la guerra atomica, cioè la fine del mondo, francamente mi piacerebbe. Ho paura che però questo possa succedere, perché non vedo sufficiente allarme razionale di fronte a un rischio di questo tipo. Quindi c'è una paura che mi prende perché sono di fronte a un rischio che non capisco come potrei in qualche modo governare o allontanare da me. Io sono convinta che siamo in una fase pre-rivoluzionaria, ma se qualcuno intende la rivoluzione per andare a spaccare tutte le fabbriche o così, ovviamente viene represso col consenso delle masse, come è giusto. Ma allora che cosa vuol dire rivoluzione oggi? Rivoluzione culturale, penso io, non come quella cinese, ma comunque un po' così. Sicuramente il mutamento dei comportamenti, perché per esempio gran parte della paura è anche questo senso di solitudine, del cosa faccio se mi succede. A me è capitato forse una quindicina di anni fa, una notte di sentire molto male e poi mi sono portato e ho dormito, ma mi è rimasto un fiatone molto intenso da allora. Il 25 aprile di 15 anni fa, a Parma, dovevo fare un discorso in piazza, ho fatto il discorso in piazza. Pomeriggio mi hanno portato a Padova perché invece dovevo fare una chiacchierata a persone sedute. E poi il giorno dopo dovevo andare a Imola. A Imola mi viene a prendere una compagna che comincia a parlare solamente ancora, dico, vai piano, perché sempre mi sono subito il fiatone, ma alla mia età, dico, e lei dice, ma intanto io sono infermiera, mi dice lei. E poi ho un'azienda di 96 anni che con qualche pillola non è che adesso fare i piedi, però va bene. Quindi vai per piacere a farti visitare, se prendi il pietone. Io infatti trovo ragionevole questo consiglio, torno a guardare, vado subito al pronto soccorso, mi rivolgo, non so, un po' di cosa, e poi mi dico, ti mandiamo, perché conoscevano qualche di mio marito che era medico. E dico, ti mandiamo giù in cardiologia, mi mandano giù in cardiologia, c'era un medico infatti che conoscevo molto bene, e qua mi dice, ma tu hai fatto un infarto, sei matto, tu hai fatto un infarto, prova a ricordarti di una sera, e infatti beh, mi ripeto che la famosa sera di 6 mesi prima in cui mi era venuto un gran male qui, e io ho detto, ma forse sarà lo stomaco, dovrò andare in bagno, o se no. Mi ricordo di aver detto, se è la mia ultima ora, che vuoi che faccia? Pace, amen. Perché se mi alzo, casco in terra, è peggio. E cosa faccio? Il telefono fa venire la croce rossa alle 3 di notte, se non giù tutto il condominio, tanto se non posso aprire la porta. Insomma, tutte queste robe che mi sono cucinate dall'altra parte. Allora, questo cardiologo mi ha detto, guarda che sono molti quelli che muoiono da paura dell'infarto. Perché se quando tu hai il cuore affaticato ci aggiungi anche la paura, naturalmente la cosa è grave. Se tu riesci a girarti dall'altra parte a dormire, te la cavi, come infatti è successo. Direi fantastica. Ma vabbè, ma voi vi divertite, ma anch'io, guarda. Altre domande? Facciamo l'ultima, facciamo l'ultima lettura. Perdoniamo. Facciamo l'ultima lettura. C'è l'ultima lettura. No, ma è breve, no? Va bene. Quella del sabato inglese. Ah, sì, sì, sì. Questa si fa. Il sabato a scuola si andava in divisa, sabato inglese, dice mia madre, e non capiamo perché il sabato deve avere una nazionalità, tanto più che a scuola lo si chiama sabato fascista. La mamma spiega che quando lei lavorava come impiegata a Milano, precoce pendolare, i sindacati inglesi avevano vinto una importante lotta per l'orario di lavoro e ottenuto che la settimana lavorativa finisse il venerdì sera, sicché il sabato là era festa. Giustamente battezzata inglese. Bella cosa mi sembrano i sindacati dopo questa spiegazione. Ma poiché l'Inghilterra era la perfida Albione, capofila delle odiate demo pluto giudaicocrazie, come le chiamava il regime, bisognava cancellare tutti i vantaggi che si ottenevano in quei paesi e sostituirli con qualcosa di italiano. E cosa meglio del fascio? Il pomeriggio si andava alla donata per sfilare militarescamente, per fare marciando il saluto al duce, l'attenti a destra o a sinistra, e altre scemenze noiosissime per ore e ore. A Novara la faccenda si svolgeva sui bastioni, una passeggiata sul terrapieno che circonda la città, grottescamente vestite da piccole italiane, giovani italiane e avanguardisti, figli e figlie della lupa. Insomma, con la divisa delle organizzazioni fasciste giovanili, senza la partecipazione alle quali non ci si poteva iscrivere alla scuola, sicché era obbligatoria e generalizzata. Le ragazze odiavano particolarmente la divisa da piccola e giovane italiana, che consisteva in scarpe nere, calze lunghe bianche, un martirio sempre a litigare con reggicalze e con le vistose calze grosse di cotone, gonna a pieghe nera e camicetta bianca abbottonata davanti, chiusa al collo con la medaglia di Mussolini, il tutto coperto da un mantello di panno nero. Ultima crudeltà, in testa si portava il fez nero d'inverno o la marinaretta, cioè un cappellino di cotone bianco di quelli detti alla marinara. Sì. Grazie.